Benvenuti a tutti, gentili ascoltatori, questo è Bab, questo è Sassà e siete su Absolute Beginners, un'altra puntata dedicata, finalmente direi, ad un altro gruppo inglese, non ne abbiamo fatti tanti. No, gli unici erano i Druti Column da Manchester e oggi invece ci spostiamo un pochino più ad ovest, nella città di Bristol, per parlare dei Breakbeat Era. Breakbeat Era che immagino la maggior parte di voi, gentili ascoltatori, non abbiano mai sentito nominare. Erano infatti un side project del magari, ma non so neanche quanto, più famoso Ronnie Sides. Vi dice qualcosa? Non lo so. Intanto ve li facciamo sentire. We'll be right back. all the times. I've been winning all my mind, easily as the sun all the time. I've been winning all my mind. Questi sono i primi due brani di Brit Beatera, il disco si chiama Ultra Obscene, siamo a Bristol, Bristol 1999. Ultra Obscene, questo disco esce come diciamo side project, ma non è neanche corretto dirlo così perché viene prodotto dalla crew Represent. Represent era la classica crew di DJ che negli anni 90 aveva sfornato tantissima jungle e drum and bass. Tutta la jungle e drum and bass dei 90 inglese era fatta da ragazzi che si raggrumavano in crew di 3, 4, 5 DJ. In particolare Represent erano Ronnie Sides, Crust, Sav e DJ Die. Tutti DJ che a modo loro producevano decine di 45 giri ogni anno per il dance floor, ma avevano altre ambizioni, tant'è che nel 97 Ronnie Sides col disco New Forms arriva addirittura a vincere un Mercury Prize, che penso sia il premio più ambito di vendita in Inghilterra. E nel 97 effettivamente la jungle drum and bass, che era già in giro da 3-4 anni, raggiunge il picco di popolarità in Inghilterra e nel mondo. E infatti Bab, Ronnie Sides e DJ Die dei Represent si distaccano, ecco, dalla crew per registrare questo album del 99 e chiamano alla voce, l'abbiamo sentita nella seconda traccia, Leonie Laws, che a differenza di quanto succedeva spesso nella musica jungle e drum and bass, non è una MC, ma bensì una vera e propria cantante. Questo è uno dei tratti caratteristici di questo album, Ultra Obscene, prodotto da XL Record, come abbiamo già detto, che ci porta quasi a definire questo album drum and bass fusion, un pochino più pop and easy listening rispetto a la musica che di solito producevano e registravano in Represent. Diciamo che aveva ambizione di ascolto e non solo di spacca ossa nelle piste. Time and consider. make it better. Got the touch to the letter. Meet me down by the river. Lay me down, I'll pull the trigger. Hurt should see you and me. Skin on skin. Bow should see. Beh, ci tengo a sottolineare che siamo a Bristol e penserete, vabbè, che palle queste divagazioni geografiche. Eh no, perché Bristol era nell'ovest dell'Inghilterra e da tempo immemore, insomma, almeno dal 700 era un porto di schiavi. Quindi già da secoli era abitata da soprattutto abitanti, ex abitanti della Giamaica. Era piena di ex schiavi o discendenti di schiavi e tuttora negli anni 90, negli anni 80, l'influenza giamaicana si faceva sentire. Se qualcuno di voi conosce il pop group e ha mai sentito qualche intervista di Mark Stewart, cantante del pop group, lui a 17 anni andava nelle dance hall giamaicane a sentire reggae, a sentire funk, che era una cosa molto normale nel quartiere giamaicano. Poi che fosse normale che lui ci andasse e lo facesse entrare, questo non lo so dire. Ma sta di fatto che questa influenza poi si sarebbe protratta, premiando la musica del pop group prima, poi di Mark Stewart e The Mafia, quando Mark Stewart se ne andò dal pop group, prodotto da Adrian Sherwood, un DJ di Bristol, ok, bianco, inglese, ma totalmente immerso nel reggae e soprattutto nel dub. I Mafia erano un gruppo, diciamo, all'avanguardia, sperimentavano tantissimo, ma la base era quella dub. E poi da lì tutto quello che poi sarebbe stato chiamato trip hop fu un'evoluzione di tutti questi suoni, queste sonorità, sempre a Bristol, fino ad arrivare a Represent, a Ronnie Sides, Crust, tutti ragazzi di origine giamaicana. Underneath the Hey, that's a new girl. Just break it right now. Eccoci qua ancora, Absolute Beginners con Breakbeat Era, l'album che ha compiuto l'anno scorso 20 anni e Babe, credo che adesso di musica così non ne viene prodotta molta. Però il tuo excursus geografico di prima, insomma, ha un po' illustrato ai nostri ascoltatori quale fosse la scena underground a Bristol nella metà degli anni 90 e hai nominato gruppi come Massive Attack e aggiungo anche i Portishead che raggiunsero una fama più grossa e anche i giorni nostri vengono più ricordati, diciamo. E loro però facevano un genere che si chiama trip hop, che però è un pochino più oscuro e lento di di questa musica dei Backbeat Era. E Ma insomma, non nasceva per essere suonato nei dance floor e trip hop, era musica d'ascolto. musica d'ascolto, questo è un po' per dire la varietà della scena di Bristol di questi anni, dovuta appunto probabilmente a tante influenze dovute dall'origine di tante persone arrivate in questa città. Quindi è sempre bello quando una scena non è specifica, fossilizzata in un solo tipo di sound, ma invece raggruppa tante sonorità. E poi c'era un sacco di gente che ha raggiunto comunque un buon successo. Prima abbiamo letto in una vecchia rivista che ho trovato, tra l'altro prodotta a Reggio Emilia, che Ronnie Sykes con New Forms vendette 600.000 copie e grazie a quelle 600.000 copie vinse il Mercury Prize in Inghilterra, non una cosa da poco. Thank you. A proposito di cartografie, qua si va nelle cartografie mentali, o quantomeno nelle mie, perché non dico Ronnie Sides che non ho mai visto, ma DJ Crust, sempre di Represent, veniva spesso e volentieri a Reggio Emilia, in un posto che si chiamava Mafia. Mafia era un locale finanziato dall'Arci che a un certo punto, metà anni 90, abbracciò tutto questo tipo di musica che veniva dall'Inghilterra, quindi tutta l'elettronica di quegli anni, soprattutto jungle e drum and bass, perché era la musica di quegli anni. E faceva addirittura una rivista che si chiamava Ultra Tomato, che parlava solo ed esclusivamente degli artisti che venivano a Reggio Emilia, ma tutte le settimane in qualche modo riuscivano a portare in questo club, perché ormai non si parlava più di rave party e Ronnie Sides, tutta la Represent, ma tutta la musica techno elettronica negli anni 90, dopo la grande repressione dell'inizio degli anni 90, finì nei club. E finì, oltre che a Londra, anche in un piccolo club di provincia, come poteva essere Reggio Emilia. E, fortuna mia, una volta a settimana veniva un DJ inglese che io potevo venire facendo pochi chilometri in macchina, potevo vedere. E dove, come nel caso dei Breakbeat Era, i nostri ascoltatori non si devono immaginare DJ che suonano macchine, ma invece piuttosto su video su YouTube possono ancora riscontrare il fatto che questi ragazzi suonavano drum and bass, nel senso che suonavano effettivamente una batteria e il basso. e Leonie Laws cantava su questi musicisti che suonavano dal vivo, cosa che a dirla così sembra scontata, però ascoltando il CD uno non potrebbe, non sarebbe sicurissimo se si trattasse di campionamento o di invece musica suonata con strumenti veri. Poi non penso sia facile farlo dal vivo. Assolutamente no. Disease. feelings, will you understand me? Siamo giunti alla conclusione, parlando anche di un fenomeno esso stesso la conclusione. Siamo nel 99, nel 99 la jungle drum and bass ormai era fuori moda, era su XL, quindi su un'etichetta abbastanza grande, avevano vinto il Mercury Prize 2 anni prima, ma queste sono musiche che hanno una vita, soprattutto una vitalità molto, molto bassa, durano pochi anni. Ed erano già state soppiantate. Ronnie Size poi nel giro di pochi anni, da un certo punto di vista, sparì, venne soppiantato da altre forme di musica elettronica. Eppure questo album raggiunse, paradossalmente, ma appunto a testimonianza che all'epoca forse questa musica c'era qualcuno che l'ascoltava, l'album raggiunse la 31esima posizione nella UK Charts per gli album venduti. E siamo arrivati alla fine e per motivi di tempo non riusciamo a finire tutto l'album, ma consigliamo ai nostri ascoltatori appunto di ascoltarselo tutto, non che troveranno nelle seguenti tracce qualcosa che non hanno ascoltato in quelle che abbiamo sentito questa sera, però insomma a noi piace. Certo, se no non ve l'avremmo proposto. Comunque grazie per l'ascolto e risentirci da Babe e da Sasà. Ciao a tutti.